che lavorano dentro Zedema sono tutte persone che hanno superato un concorso pubblico bandito dal Comune di Roma nel maggio del 2002 e che è stato espletato tra luglio e dicembre 2004. Quindi sono persone che hanno superato e sono risultati idonee a un concorso pubblico bandito dal Comune di Roma e che comunque poi sono state assunte da una società di diritto privato. E questa è una grossa contraddizione, no? Allora, in tutta questa situazione noi temiamo che come figli di un dio minore rischiamo poi di essere designati come l'agnello sacrificale per, cioè a estrema razio poi alla fine si dovrà tagliare qualcosa e non vorremmo che esse a cadere siano le nostre teste. Allora su questo allora massima solidarietà anche ai colleghi che in questo momento stanno perdendo una fetta considerevole di salario, circa un terzo, e quindi non è cosa di poco conto. Massima solidarietà anche agli utenti che sono poi anche coloro che sono direttamente colpiti da queste misure devastanti, perché comunque la riduzione del servizio che si sta attuando significa ritornare agli albori, ritornare a quando le biblioteche dipendevano dalle circoscrizioni, erano degli angoletti bui, nei meandri, negli scantinati delle scuole. E tutto ciò però anche stare attenti a salvaguardare la dignità e la stabilità occupazionale di una parte di lavoratori che in questi anni hanno contribuito a sviluppare e a rendere efficiente e prestigioso questo servizio pubblico che, come sicuramente avrà sottolineato anche Giorgio, è un servizio di fondamentale importanza, ma non solo da un punto di vista culturale ma anche sociale, vorrei dire anche proprio come volano di sviluppo economico nella città. E se non si ha la capacità di comprendere questo, significa che siamo veramente alla frutta. Che dire? Allora, senti, ma dire ci sono state già delle avvisaglie proprio che, come dire, voi avete carpito in maniera forte che potreste essere, oltre al fatto che quasi coincide la somma, diciamo, appunto, del taglio con quello che viene a costare la spesa per appunto il vostro lavoro. Sì, si parlava di due. Questa strana coincidenza, e quindi la matematica poi non è un'unione, uno più uno fa due, però non c'è niente ufficiale, ma serpeggiano appunto i non detti. E ovviamente quello che più temiamo noi è che possa scaturire una guerra tra poveri, cioè la difesa del mio accessorio contro il tuo posto di lavoro. Allora, questo potrebbe essere un problema che è sottinteso, e da questo punto di vista appunto per questo sono voluto anche intervenire in questa discussione per iniziare appunto a fare un po' il quadro della situazione, ma in modo complessivo, cioè siamo un po' tutti quanti sulla stessa barca, dobbiamo renderci conto che appunto soprattutto se i lavoratori e le lavoratrici non si uniscono non cadono nella trappola delle divisioni, delle spartizioni, forse è una battaglia che si può ancora tutta quanta giocare. E come si diceva appunto, l'unica battaglia che si perde è quella che non si fa. Allora da questo punto di vista vorrei intanto rassicurare appunto che da parte, per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori di Zedema, non c'è nessuna contrapposizione alle lavoratrici e ai lavoratori di ruolo, anzi in tutti questi anni abbiamo lavorato fianco a fianco pur subendo un trattamento che non era dei migliori, in alcuni casi addirittura in alcune biblioteche si parlava anche, abbiamo diciamo rasentato anche il mobbing. Purtroppo questo c'è, fa parte della natura umana, però appunto in questa situazione io credo che soprattutto le lavoratrici di ruolo, le lavoratrici e i lavoratori di Zedema e insieme agli utenti possano costituire un elemento di forza dentro questa città che possa anche andare a dire che va ridisegnato proprio tutto il progetto della cultura dentro questa città. Allora anche andare a rivisitare tutta una serie di situazioni. Per esempio, fino ad oggi l'internalizzazione di queste lavoratrici e di questi lavoratori di Zedema è stato un tabù. Io credo che oggi, proprio anche in termini di risparmio di spesa pubblica, questo tabù vada infranto. Bisogna avere il coraggio di porre con forza alcuni concetti. è inutile questo passaggio triangolare tra l'istituzione Biblioteche di Roma, la società Zetema e il Comune di Roma, che appunto dà dei soldi in bilancio all'istituzione Biblioteche di Roma. L'istituzione Biblioteche di Roma fa un contratto di servizio con la società Zetema. È anche un'inefficienza proprio nell'organizzazione stessa del lavoro, no? E quindi questo andrebbe affrontato, però noi vogliamo appunto mettere i puntini sulle i. È facile dire liquidiamo Zetema, e con Zetema però si liquida anche quelle lavoratrici e quei lavoratori che in questi anni però ci hanno lavorato e che comunque hanno lavorato nelle biblioteche di Roma ancor prima dell'ingresso di Zetema, perché la storia di questi lavoratrici e di questi lavoratori inizia nel lontano 2001. Parliamo appunto di una situazione di precarietà che si è andata a sviluppare negli anni e che poi ha trovato una forma di stabilizzazione, comunque stabilizzazione apparente, con l'entrata appunto in campo di Zetema. Dico stabilizzazione apparente perché noi siamo tutte persone che hanno sì un contratto a tempo indeterminato, però questo contratto viene appunto, cioè è in qualche modo legato al contratto di servizio che l'istituzione biblioteca fa con la società ogni 3 anni. Nel momento in cui viene a cadere il contratto di servizio tra l'istituzione biblioteca di Roma e la società Zetema, che fine faranno questi lavoratori? Allora non basta neanche nascondersi dietro il dito, come qualcuno in qualche modo abbozza, ma questi lavoratori sono garantiti perché comunque hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. No, perché con la riforma del mercato del lavoro dell'anno scorso la società Zetema può benissimo licenziarci per motivi economici, cioè non avendo più la committenza da parte del Comune di Roma può benissimo licenziare queste persone e non ricollocarle in altri posti di lavoro, a parte che è concesso che noi non vorremmo essere ricollocati in altri posti di lavoro. Abbiamo acquisito in questi anni un'esperienza lavorativa, delle competenze e vorremmo continuare a poter fare quello che stiamo facendo. Certo, un certo risparmio certamente si potrebbe invece già accantonare grazie proprio a un progetto di internalizzazione di questi 96 lavoratori, visto che comunque la spesa di Zetema comprende anche, no, gli stipendi dei consulenti, peraltro quello delle consulenze ben pagate. Ora non so se è questo proprio il caso di Zetema, se siano pagati profumatamente, ma insomma è un problema che credo l'amministrazione debba mettere necessariamente in conto. Ci sono assessorati in cui le consulenze arrivano a diverse centinaia e sono davvero, insomma, tanti soldi che vanno via per questo genere di collaborazioni, quindi che si tagli da quella parte piuttosto che a chi, insomma, il lavoro peraltro delle biblioteche li spetterebbe, proprio perché tu dicevi sono lavoratori vincitori di concorso, per cui c'era anche un processo di, diciamo, stabilizzazione quantomeno abbozzato. Sì, certo, attenzione, sono risultati idonei a un concorso perché i vincitori per fortuna sono entrati, i 30 vincitori, stiamo parlando di idonei, perché poi qualcuno qui potrebbe anche iniziare appunto a mistificare, però sta di fatto che sono persone che non è che sono state dagli occhi azzurri e i capelli biondi, e quindi per volontà dell'amministratore delegato di Zetema sono stati assunti. Sono persone che, soprattutto il gruppo iniziale, è stato assunto appunto innanzitutto in seguito a una graduatoria stilata nell'ottobre del 2004, che era una graduatoria del precariato che si era andato ad accumulare negli anni precedenti dentro le biblioteche, e poi perché estratti appunto da questa graduatoria di idonei nel 2004. Quindi allora attenzione, perché le argomentazioni che si portano in campo contro i processi di internalizzazione sono: nel pubblico impiego si assume, si entra solo tramite concorso, e questi sono tutti soldi, tutte le persone che hanno superato, sono risultate idonee a un concorso pubblico. Quindi questa prima argomentazione la possiamo togliere, eliminare dal campo. La seconda argomentazione è che appunto l'internalizzazione era questo principio, allora internalizzare conveniva alla pubblica amministrazione. Tutti questi anni hanno dimostrato l'esatto contrario. Il nostro esempio è un esempio che lo dimostra proprio con cifre alla mano, noi dobbiamo accostare circa il 20-25% in più di un dipendente di ruolo. Allora, anche questa seconda argomentazione viene a cadere. Allora, qual è il motivo per cui si intende perseverare su questa strada? Non esiste. È solo una questione di volontà politica, una questione che vuole appunto andare ad alimentare ulteriormente carrozzoni che sono appunto il volano di consenso politico per questa o quell'altra cordata. Non ha un senso da un punto di vista della razionalizzazione anche per quello che è l'ordine del giorno della spesa pubblica, perché se vogliamo allora parlare di risparmio di spesa pubblica, iniziamo appunto a farlo in questo modo. Iniziamo a tagliare le poltrone, iniziamo a tagliare tutti i consigli di amministrazione inutili, salvaguardando e rivalorizzando l'esperienza di tante lavoratrici e lavoratori che in questi anni hanno dovuto subire proprio anche le angherie di questi padroncini, che noi per esempio siamo sotto inquadrati rispetto al lavoro che stiamo facendo. E l'amministratore delegato dell'azienda da cui noi dipendiamo, Zedema, dice: io non vi posso dare il giusto riconoscimento della mansione che fate se il comune di Roma, il mio committente, non mi dà i soldi per farlo. Ma ti rendi conto? Cioè, c'è un contratto nazionale che stabilisce che se noi facciamo determinate cose dobbiamo essere inquadrati a un certo livello. Solo che questo signore si permette di dire che se non c'è i soldi da parte del committente non ci può riconoscere questo livello. Siamo alla follia. Eh sì, stiamo alla follia. È peraltro uscito, insomma, un comunicato a firma le lavoratrici e i lavoratori Zetema impiegati nelle biblioteche di Roma, in cui si chiede per l'appunto la salvaguardia e lo sviluppo del sistema bibliotecario e la salvaguardia dei posti di lavoro e anche l'internalizzazione appunto dei dipendenti. Ovviamente, perché noi ribadiamo, la nostra battaglia non è una battaglia nostra, è la battaglia di tutto i lavoratori e le lavoratrici delle biblioteche, ma è soprattutto anche la battaglia degli utenti e dei cittadini di questa città. Va bene, grazie Claudio per averci chiamato e vediamo un po' quali sono gli sviluppi di questa vicenda. Ciao, grazie vicenda. A voi. Ciao. Buona giornata. Gravitational pull, I have you making a fool out of yourself on the dance floor. You